America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Si apre una settimana carica di tensione. Fra poche ore, fra un'ora e mezzo avremo l'apertura dei mercati qui a New York e sapremo quale sarà la reazione americana agli andamenti europei dopo quello che è successo la settimana scorsa anche qui in America. Due elementi di tensione qui negli Stati Uniti. Il primo a New York sul mercato azionario: le aziende americane sono preoccupate dal fatto che l'indebolimento progressivo dell'euro, che a questo punto secondo gli esperti qui a New York continuerà, andrà ad intaccare questo indebolimento il rimpatrio dei profitti delle aziende americane. A Washington preoccupazione sul livello macroeconomico: se continuerà questo indebolimento dell'euro e di conseguenza il rafforzamento del dollaro, gli Stati Uniti perderanno di competitività. Ora, uno dei punti di forza della politica economica americana era quello di recuperare competitività del settore all'esportazione per poter rendere la ripresa economica più sostenibile. Se il dollaro dovesse rafforzarsi troppo al di là di quello che è un giusto punto di equilibrio, almeno quello che poteva essere un giusto punto di equilibrio fino a qualche settimana fa, ecco che ci sarebbe anche un danno economico. Questo per dire che cosa? Beh, per dire che in fondo a Washington, nonostante tutto quello che si dice in Europa, e cioè che gli Stati Uniti così vedono con un certo sospetto l'euro, sono sempre stati contrari all'idea dell'euro, vedevano la concorrenza dell'euro nei confronti del dollaro, beh, oggi la situazione è molto cambiata. Non è un caso che il presidente Obama ha passato molto tempo al telefono con le sue controparti europee. Per gli Stati Uniti avere una zona euro è importante, avere una zona di equilibrio stabile possibilmente, potenzialmente è importante, e semmai la sfida che giunge da Washington è quella di fare di più, un balzo in avanti per portarsi verso una soluzione di politica fiscale europea e quindi mettere l'anello che manca, affiancare alla BCE anche un ministero economico e finanziario a livello centrale. Questo è un po' un sogno nei centri studi degli Stati Uniti. Naturalmente sappiamo che la realtà economica e politica europea è ben diversa e un salto di questo genere sarebbe molto difficile. And BP is committed to pay for the response effort and we will hold them to their obligation. I have to say, though, I did not appreciate what I considered to be a ridiculous spectacle during the congressional hearings into this matter. Uno spettacolo grottesco, dice il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, riferendosi alle audizioni in congresso della British Petroleum, della Transocean, della Halliburton, che si scambiavano accuse, come vi abbiamo riferito la settimana scorsa, per le responsabilità sullo spillover, sulla perdita di petrolio sempre più grave nelle acque del Golfo del Messico. Ecco, attorno a questa storia c'è uno sviluppo che vorrei sottolineare molto interessante secondo me, cioè il ruolo delle aziende italiane per salvare in qualche modo le acque della Louisiana, del Golfo del Messico, dal disastro ecologico. Ci sono alcune aziende specializzate in questo, aziende italiane appunto, hanno già preso contatto con le nostre autorità a Washington, con l'ambasciata italiana. Ho saputo che l'ambasciata italiana si è messa in contatto già con l'unità di crisi della Guardia Costiera, portando all'attenzione delle autorità americane il fatto che ci siano delle aziende italiane straordinariamente capaci, abili nell'intervenire per salvare, tra virgolette, la situazione. Una di queste società è la Globeco dell'armatore Mariano Pane. La Globeco ha una ventina di navi, potrebbe mettere, diciamo così, in linea una ventina di navi, ne ha già 11 operative, le quali operano anche su fondali bassi e riescono a separare il petrolio dall'acqua e quindi ad avere anche un effetto positivo nel cercare di rimediare alla situazione, perché il petrolio non viene perduto e si ritorna alla pulizia dell'acqua. Un'altra società che lavora nello stesso settore, è la OILSEP CC Ecology, una società pugliese, una società relativamente piccola, che ha una tecnologia, una macchina che di nuovo consente di separare e di recuperare il petrolio, lasciando poi l'acqua di mare pulita, attraverso una macchina che viene montata su una chiatta. Infine, un'altra società molto piccola, appena 7 milioni di euro di fatturato, però queste sono poi le società che in Italia davvero rappresentano, come sappiamo, la spina dorsale delle nostre piccole aziende. Una società di Brescia che si chiama Resinex ha inviato già 1,2 chilometri di barriere speciali di materiali e plastici e di polimeri che consentono di proteggere le coste appunto dall'invasione del petrolio e del catrame che sta creando questo straordinario disastro ecologico. Seguiremo nel corso della settimana questi sviluppi, soprattutto per capire se poi l'unità di emergenza della Guardia Costiera americana darà spazio a queste aziende o potrà appoggiarsi a loro. Negli ultimi giorni, invece, New York in qualche modo ha dominato con alcune notizie, secondo me, molto curiose e interessanti. La prima, un aereo ha volato negli ultimi giorni di notte sulla nostra metropoli, la metropoli da dove vi parlo, con un meccanismo di laser speciale chiamato LIDAR, Light Detection and Ranging, che ha l'obiettivo di mappare i tetti della città e certi vicoli, certe strade della città, per poter poi identificare un posizionamento di centrali fotovoltaiche da montare sui tetti per recuperare l'energia solare. L'inclinazione dei tetti è molto particolare e, volando di notte, grazie alle proiezioni di questo laser, riescono ad avere le inclinazioni assolutamente precise di tutti i tetti della città di New York. Allo stesso modo, identificando le inclinature delle strade, dovrebbero riuscire a prevenire il rischio di inondazioni dovute a forti piogge oppure allo straripamento dei fiumi. Storia molto interessante. Dall'alto il pilota avrà visto l'Empire State Building. Vi faccio sentire una voce importante collegata a questo straordinario grattacielo americano. By the catching force, the sympathetic influence of what we do, the evident fullness. Non so se avete riconosciuto questa voce straordinaria, una voce che non è più con noi, la voce di Maria Teresa di Calcutta. Che cosa succede? Succede che i cattolici americani si sono scatenati contro l'Empire State Building perché il 26 di agosto è il centenario della nascita di Madre Teresa. Qual è la tradizione dell'Empire Building? Chi è venuto a New York l'aveva visto, è sempre illuminato in modo diverso e le ragioni sono molto specifiche. C'è un evento legato a queste luci. Questo gruppo di cattolici aveva chiesto di illuminare l'Empire State Building di bianco e blu, che sono i colori dell'ordine della missionaria. L'Empire State Building ha respinto la richiesta, ci sono già 6.000 persone che hanno firmato una petizione di protesta. I Knicks, avete sentito, la grande squadra di pallacanestro americana, grande agitazione e eccitazione a New York perché LeBron James potrebbe aver giocato l'ultima partita con la maglia del Cleveland la settimana scorsa e potrebbe venire a giocare appunto con i Knicks. Ve lo ricordo, LeBron James è forse il miglior giocatore di basket americano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ma eccoci alla canzone del giorno. Sono passati 12 anni dalla morte di Frank Sinatra, la grandissima voce americana. Il 12° anniversario della sua morte è stato sabato scorso. Vi propongo dunque, in questi tempi di oscurità, una sua canzone fantastica, Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile